Sembrano ormai lontani i tempi in cui si lottava per la libertà, libertà dallo straniero, libertà dal potente, dalle sue angherie, libertà dai governi retroivi, libertà dalle agenzie storiche per la subordinazione delle masse, libertà dalla schiavitù del capitale. La democrazia che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo ci ha insegnato che votavamo a responsabilità limitata, che se avessimo superato una certa soglia il gladio o la gladio si sarebbe abbattuto prontamente sui nostri crani, che i risultati dei referendum popolari possono essere bellamente ignorati, che opposizione e governo banchettano assieme in piena armonia, che chi è oggi in un partito domani è in un altro, che la corruzione aligna ovunque nella pubblica amministrazione, che le eventuali colpe sono pagate soltanto dai deboli e che alla logica del denaro non si può dire di no. In queste condizioni, condizioni ineliminabili a quanto pare, condizioni sine qua non, a chi gliene frega più della libertà? L'unica istruzione che la nostra società, nel dettato esplicito ed implicito delle sue istituzioni, fornisce ai nostri figli è la seguente: stare schisci, accettare la propria condizione di subordinato e sopravvivere a danno di qualche altro subordinato. In queste condizioni va da sé che l'unica libertà alla quale si possa pensare è quel sottoprodotto della storia delle idee che risponde sempre e comunque alle esigenze del mercato. Fra le rime di Argias Bolenfi, che Olindo Guerrini, in arte Lorenzo Stecchetti, pubblicò nel 1897, spicca un immortale inno al salame che inizia con i seguenti 7 versi. O progenie divina, o d'ogni ben cagione, figlio di Salamina e del re Salomone, e della fame infame trionfator, salame, balzi or l'agile strofa innanzi a te. Proseguendo, il poeta definisce il salame onor del genio umano e del mondo civile consolator sovrano, ma pensava di far dello spirito mordace, e mai avrebbe pensato, ciò dicendo, di esercitarsi in oscure ma fortunate profezie. Ai suoi tempi il pericolo era costituito dalla tenia, non dai trigliceridi, ma mai avrebbe potuto immaginare che la sdoganatura del salame sarebbe giunta dall'evoluzione delle strutture ideologiche deputate a governare le relazioni umane. La nuova campagna pubblicitaria dei salumi Vismara è tutta improntata su una metafora multipla. Fette di prosciutto ben distribuite formano il rotondo quadrante, tocchetti di specche e di pancetta segnano le ore e i minuti, 2 würstel sostituiscono le lancette, 2 bei pezzoni di salame costituiscono la suoneria. Ecco fatta la sveglia. Oppure, con una diversa distribuzione dei diversi salumi, ecco altri orologi. Il rapporto fra il meccanismo finalizzato alla misura del tempo e gli insaccati, tuttavia, rimarrebbe misterioso se l'osservatore e potenziale consumatore non venisse guidato abilmente da uno slogan. La libertà in un secondo. Non la libertà in un minuto o in un'ora, che sono durate ormai obsolete per chi voglia partecipare attivamente del nostro gioco al massacro sociale, no. Ma in un secondo, anche perché il secondo, guarda caso, è anche il nome di una portata nel menù, e non di una portata qualsiasi, ma del piatto forte. Dunque lo slogan non può neppure essere la libertà in un antipasto, che sarebbe autocontraddittoria, perché se i salumi sono l'antipasto, il pasto resta ancora da fare, e allora addio libertà. Questa libertà, diciamo così, di tono minore, questa libertà precotta, è quella di non fare da mangiare, ma di trovarselo bello e fatto, grazie alle comode vaschette che ne moltiplicano il prezzo, poi senza neppure dover passare attraverso la delicata e ingrata fase dell'affettamento. è l'unica tipologia di libertà per cui rimane possibile lottare. Farsi del male e agitare il pugno chiuso con la smorfia di chi sta conducendo una strenua battaglia nella convinzione di poterne essere il vincitore.